Questa vita è una commedia di bambini. Giochiamo a far la guerra con i vicini. Lasciamo case vuote, madri senza bracci, vecchie finestre, termosifoni, ghiacci. Ci sono posti dove non si vuol tornare, perché il passato ci fa sempre un poco male. Ma prima o poi facciamo i conti col regista. Non sono io, sono il protagonista. C'è un amore lontanissimo che guarda il mare in tempesta e aspetta lì alla finestra qualcuno che non torna più. In questa storia di TV da ricomprare, sono tre giorni che non vedo più un canale. Poi quando riesco non c'è niente che mi piace. Non c'è magia, qualcuno l'ha portata via. Vorrei sintonizzarmi con il tuo cuore, danzare al battito di una nuova canzone. La vita è vita quando tengo la tua mano, ancora oggi che sei così lontano. C'è un amore lontanissimo che guarda il mare in tempesta e aspetta lì alla finestra qualcuno che non torna più. E guarda il mare in tempesta e parla al mare in tempesta e dice al mare in tempesta: non posso stare senza te, non posso stare senza te, non posso stare senza te, non posso stare senza te, non posso stare senza te, non posso stare senza te.